Letture di Radio 24. Più tristezza che indignazione. La lettura delle carte sul caso Ruby e delle intercettazioni telefoniche tra le ragazze coinvolte fa emergere, secondo Daria Bignardi, un mondo fatto di aspirazioni deprimenti, poca fantasia e sogni banali. Ragazze giovani e carine, appena un po' sciupate dalle labbra rifatte, i seni gonfiati e le unghie posticce, parlano tra di loro. Hanno 25 anni e sono cresciute al mare, una a Rimini, l'altra a Cagliari. Una è bionda e l'altra è bruna, e se non fossero così artefatte, sarebbero ancora più belle. Sono ragazze pratiche e parlano del loro futuro. Una è consigliera regionale, l'altra aveva in vista un posto alle prossime elezioni comunali. La bufera del Bunga Bunga le ha travolte e non deve essere facile per loro, anche se sono ragazze determinate, ambiziose e sveglie, farci i conti. Non sarebbe facile per nessuno. E adesso? Magari ne usciranno più famose e più forti di prima. Se ce la fanno, se tengono duro, potrebbero finire in Parlamento. Casa, palestra, fidanzato. Quel che più mi mette a disagio nelle intercettazioni non è la caduta dell'impero, come la chiama qualcuno, di un potente solo e anziano, ma i sogni e i valori della gioventù che trascina con sé. Un amico commenta. Casa, palestra, ha dimenticato il suo estetista, povero. Il mondo che esce da questa classifica, prima la casa, seconda la palestra, terzo il fidanzato, anche se non è edificante, anzi ammettiamo che è deprimente, probabilmente esprime le aspirazioni di tante giovani dal linguaggio spiccio, zeppo di amò e assolutamente zero, di boss of the boss, di regalino e di disperazione più totale. Sogni banali, poca fantasia, scarsa cultura. Solo l'amare, solo il conoscere conta, scriveva Pasolini. Da angoscia al vivere d'un consumato amore, l'anima non cresce più. Ecco, come può crescere l'anima in questo panorama di regalini, buste di denaro, gioielli di strass, amicizie a pagamento, bagni in piscina, shopping al centro commerciale, balletti, vestiti, divertimenti grossolani, calcoli e scorciatoie? Che donne diventeranno? Che persone saranno queste ragazze con le labbra e i seni gonfiati e lo sguardo duro? Me lo chiedo con tristezza. Io non sono indignata, sono triste. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Nicole, Barbara e le altre, come cresce l'anima? Di Daria Bignardi, pubblicato da Vanity Fair del 9 febbraio. Letture di Radio 24. Voti validi, ma i votanti erano soltanto 619. È successo nel seggio di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, Puglia. I conti che non tornano sono quelli dei voti andati all'ex senatore di Alleanza Nazionale Euprepio Curto, oggi consigliere regionale pugliese dell'UDC, che ha avuto più voti che votanti. C'è un posto dove la politica fa miracoli, dove qualche anno fa dei 27 vincitori di un concorso per dipendente comunale, 22 sono prodigiosamente risultati parenti di politici locali e dove in un seggio elettorale si sono inaspettatamente materializzati alle ultime regionali più voti dei votanti. Proprio come accade in una esilarante scena di Qualunque mente, il film di Antonio Albanese che prende in giro un certo modo di fare politica. Ma qui non siamo a Marina di Sopra, il paese inesistente di cui Cettola Qualunque diventa sindaco grazie alla miracolosa moltiplicazione delle preferenze. Il posto in questione si chiama Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, collegio elettorale e feudo di Euprepio Curto, ex senatore di AN, ora consigliere regionale pugliese dell'UDC. Nome che a molti dirà qualcosa, non soltanto per merito delle perle che hanno decorato il suo mandato a Palazzo Madama, come la proposta di creare un albo degli ex parlamentari, dal quale le pubbliche amministrazioni dovevano attingere per distribuire poltrone di sottogoverno. Curto è stato vittima 3 anni fa di una perfida burla architettata per un programma di La 7 da Paolo Calabresi, che lo ha agganciato travestito da magnate russo interessato ad aprire un casinò nel Salento. Lui c'è cascato in pieno, intavolando davanti alla telecamera nascosta una trattativa imbarazzante. È finita che ha dovuto ritirare la propria candidatura alle politiche del 2008. Nondomo ha poi cambiato partito, preparandosi, dopo essere stato accolto a braccia aperte dall'UDC di Pier Ferdinando Casini, a correre per la regione. Ed è in quella occasione che avviene il miracolo. A fine marzo del 2010, Curto risulta eletto per una manciata di preferenze. Ma un suo collega di partito, tale Antonio Scalera, non ci sta. Dice che in un seggio di Taranto gli hanno conteggiato per sbaglio meno voti di quanti ne ha realmente avuti e fa ricorso al TAR. I giudici confermano l'errore materiale. Scalera ha ottenuto 22 preferenze in più ed è a lui che spetta la poltrona occupata da Curto, il quale però non la vuole mollare e fa a sua volta ricorso con la stessa motivazione. Pure a lui gli elettori avrebbero dato un numero di consensi maggiore di quello registrato, in particolare nel seggio numero 19 di Francavilla Fontana, dove la verifica dà risultati incredibili. Tolte le schede bianche e nulle, 34, e quelle su cui c'è il solo nome del presidente, 74, nei verbali c'è scritto che i singoli partiti hanno racimolato 619 voti. L'UDC di Curto ne ha avuti 104, ma il verbale delle preferenze ai singoli candidati dà una versione differente, e cioè che Curto avrebbe avuto 127 voti individuali, addirittura 23 in più del suo partito, il che è già impossibile. O è sbagliato il verbale dei voti di lista o quello delle preferenze. E non è finita qui. Quando gli emissari della prefettura aprono il contenitore delle schede, si accorgono che non sono, come è normale, in un plico sigillato, ma in un fagotto informe tenuto insieme con lo scotch, senza apposizione di bolli di sezione e di firme sui lembi di chiusura. Bolli e firme invece presenti sulle buste contenenti le schede di tutte le altre sezioni e che dovevano esserci pure su quella del seggio incriminato, a giudicare dalla frase contenuta nel verbale stilato alla fine delle votazioni. Testuale. Sulla busta sono apposti il bollo di sezione, le firme del presidente, del segretario e dei rappresentanti delle liste dei candidati che ne fanno richiesta. E non è l'unica sorpresa, perché dal riconteggio delle schede si scopre che i voti di Curto sono diventati addirittura 132, più altri 4 per il suo partito, totale 136. Da dove siano spuntati è un mistero. Quel che è certo, però, è che il numero riporta l'ex senatore in vantaggio sul suo rivale Scalera, anche se produce un effetto soprannaturale. Siccome i voti in più non vengono sottratti alle altre liste, nel seggio 19 di Francavilla Fontana il numero delle schede valide è maggiore di quello degli elettori che le hanno disposte nell'urna, cioè 651 contro 619. Ma per il TAR di Bari va bene così. Il controricorso di Curto è accolto. Nonostante questa assurdità aritmetica e nonostante le schede trovate in una busta senza bolli né firme, come ha già stabilito una sentenza del Consiglio di Stato emessa per un caso analogo, non siano utilizzabili per rettificare i risultati delle urne. Il tutto senza considerare alcune circostanze curiose avvenute al seggio, presieduto forse per un segno del destino da una signora che si chiama Patrizia Curto. Succede, per esempio, che una scrutatrice non si presenti e venga immediatamente rimpiazzata, ma poi la sua firma compaia su tutti i verbali. Succede ancora che il nome della sua sostituta invece non compaia mai nei verbali, tranne che al momento in cui le viene affidata in assoluta solitudine la busta delle schede votate, per intenderci quella che diventa il fagotto senza bolli né firme, da consegnare all'ufficio elettorale del comune, dove, guarda caso, lavora suo marito. Gianluigi Pellegrino, l'avvocato di Scalera, è senza parole. Siamo rimasti basiti nel vedere i verbali, il tourbillon avvenuto nel seggio e il fagotto che spuntava dalla busta. Rispettiamo tutte le sentenze, ma questa ci ha davvero sorpreso. Vedremo ora la sentenza finale del Consiglio di Stato. Certo, è una di quelle vicende in cui tutte le sedi di controllo dovranno fare massima chiarezza. Auguri. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Il miracolo dell'ex senatore che ha avuto più voti che votanti di Sergio Rizzo dal Corriere della Sera di martedì 8 febbraio.